stiamo per cominciare. Allora, buonasera, sono venuto qui a portare gli auguri a Redacta, a sottolineare l'importanza di questo lavoro che hanno incominciato a fare, che prosegue e che, grazie a Dio, ha un certo successo, insomma, che significa appunto che quando ci si dà da fare per rivendicare i propri diritti, in questo paese che sembra averli dimenticati da parte dei lavoratori, si trova sempre della gente che viene dietro. Mettere insieme dei freelance non è una cosa semplice. E quando, diciamo, abbiamo cominciato con ACTA all'inizio dei 2000 a provare a fare questo tentativo, sicuramente alcuni di noi avevano dietro delle esperienze, chiamiamole così, sindacali, no? Sindacati tradizionali, con i lavoratori dipendenti, eccetera. Il modo di organizzare i freelance è completamente diverso, cioè uno può avere una grande esperienza di sindacalista, dei metalmeccanici o di quello che vuole, cioè di lavoratori dipendenti, quando devi avere a che fare con i freelance, che sono sparsi, non ci sono dei luoghi, come dire, dove si ritrovano, eccetera, tutto diventa molto più complicato. Ci ha aiutato in un certo senso parecchio l'esperienza dei freelance americani. Sono stato io appunto che ho insistito per come dire, guardare fuori, guardare all'estero, guardare soprattutto a chi ormai su questo terreno si muove da anni. Sono anche andato a trovarli, adesso spero che nei prossimi mesi anche voi riusciate di nuovo a ricostituire il rapporto con questi compagni americani. E lì mi sono accorto, insomma, che il modo di reclutare o di organizzare le persone è completamente diverso. E sicuramente lo strumento fondamentale rimane il sito, rimane internet e così via. Niente, io non ho molto altro da dire. Ritengo che comunque questa tematica che voi avete sollevato, e l'avete sollevata dall'ambito di una contrattazione collettiva, anche questa è una cosa un po' strana, no? Perché sta maledetta legislazione europea fino a poco tempo fa vietava ai lavoratori autonomi di fare contrattazione collettiva, trattandoli come se fossero delle multinazionali, no? Che si mettono insieme. Quindi chi fa relazione collettiva secondo la legislazione europea sta costituendo un trust e quindi incorre nella legislazione antitrust. Cioè, vedete la idiozia del neoliberalismo, cioè, poi sono deficienti, oltre che pezzi di merda. Finalmente con la storia delle piattaforme la stanno superando e voi avete provato ad affrontare il tema della contrattazione collettiva da parte di lavoratori, collaboratori esterni di case editrici. Insomma, è un caso anche lì, abbastanza unico, no? Un esperimento, spero che vada bene e comunque insomma è un passo avanti molto importante. Quindi auguroni. Sentite? Ok. Allora, ringrazio Sergio per l'introduzione, ringrazio anche il Cox che ci ospita ancora una volta in questo posto che a noi è molto caro, perché vedrete in questa piccola presentazione che abbiamo preparato e in certi momenti importanti nella storia di Redacta alla fine ci siamo ritrovati a tornare qua, quindi grazie ancora per l'ospitalità. Allora, non so chi di voi non conosce Redacta, siete in tanti proprio a non aver mai sentito parlare di Redacta. Direi di no. Quindi dico due cose ma vado veloce visto che ci conoscete. Quindi Redacta è la sezione di ACTA che riunisce chi lavora in editoria libraria e Redacta nasce nel 2019, dove invece ACTA, l'Associazione Nazionale dei Freelance, nasce nel 2004 con l'obiettivo di tutelare gli interessi di chi lavora in maniera autonoma in Italia. E lo fa in maniera trasversale e lo fa tramite inchieste e insomma proposte, disegni di legge di riforma del welfare, e ACTA in questo modo diventa un interlocutore istituzionale che riesce appunto a vedere riconosciuta una serie di rivendicazioni, tra cui l'approvazione dello statuto del lavoro autonomo e anche l'allargamento del perimetro di certi diritti come maternità e malattia. E questo approccio trasversale è fondamentale perché mette insieme professioni che sono diverse ma che di fatto sono legate da alcuni punti in comune, come l'inquadramento fiscale, quindi appunto la partita IVA, e quello previdenziale, quindi la gestione separata. E però se andiamo a vedere il mercato dei, o meglio i singoli mercati del lavoro, ci accorgiamo dopo questo. Quando se andiamo a vedere i singoli mercati del lavoro ci accorgiamo che questo approccio trasversale è meno efficace perché i lavoratori e le lavoratrici si trovano a dover affrontare delle questioni molto specifiche come quello dei compensi, come quello della gestione dei rapporti con la committenza, che appunto sono, diciamo, subordinate a delle condizioni di mercato. E Redacta nasce per questo, nasce per affrontare appunto queste sfide all'interno del mercato dell'editoria libraria. Quali sono alcune di queste caratteristiche, diciamo, del mercato? Vado molto velocemente: una forte esternalizzazione che è aumentata negli ultimi decenni grazie alla digitalizzazione e in particolar modo ad alcuni software che permettono il passaggio di certi file, diciamo, prelavorati ancora in fase di lavorazione fuori e dentro dalle case editrici. Quindi se prima avevamo una casa editrice dove c'erano tutta una serie di dipendenti che dovevano lavorare lì attorno, diciamo, a un computer che aveva questo software, ora ciascuno di noi può avere questo software a un prezzo tutto sommato modesto sul proprio computer, e in questo modo il datore di lavoro non è più costretto, diciamo, ad assumere queste persone ma può esternalizzare questo tipo di lavoro. E un'altra caratteristica del settore è che non ci sono delle barriere all'ingresso, quindi come per esempio le certificazioni professionali o l'iscrizione ad albi. L'unica, diciamo, caratteristica è quella di una gavetta piuttosto lunga che prevede solitamente la frequentazione di un master professionalizzante e un conseguente stage. È una gavetta che, diciamo, dal punto di vista del contenuto formativo non è che offra chissà che, quello che offre è una rete di fatto di appunto fra lavoratori, che è fondamentale per rimanere all'interno del settore. Quindi abbiamo appunto un mercato del lavoro con queste caratteristiche, e quello che ne deriva è un lavoro editoriale estremamente fragile, da una parte perché ci troviamo in quanto lavoratrici e lavoratori a contrattare individualmente e ad avere quindi a che fare con una controparte che è appunto estremamente sproporzionata, e dall'altra perché sono mancati per decenni dei riferimenti condivisi sui compensi, che sono quelli che stiamo cominciando a offrire noi adesso. Purtroppo è anche un lavoro che ha una componente, diciamo, vocazionale, per cui si crea questa situazione in cui molti sono portati a lavorare con grande intensità anche per compensi tutto sommato ridotti, e poi c'è un grande isolamento perché c'è proprio una mancanza di soggetti di rappresentanza e di prospettive di azione collettiva che, come diceva Sergio, fino a pochi anni fa erano semplicemente impossibili. E è in questo contesto che nasce Redacta con la sfida e il desiderio di organizzare i freelance. E, diciamo, il primo modo che abbiamo trovato, che è quello che portiamo avanti tuttora, è quello delle riunioni. Cioè, di fatto, dicevamo prima appunto che i freelance sono isolati. Le riunioni sono un luogo fisico dove si possono incontrare, dove si conoscono per la prima volta, dove si parlano e dove si trovano anche a condividere degli aspetti molto specifici legati al loro lavoro. E questo permette di analizzare appunto delle piccole condizioni, come ho un problema con questo tempo di pagamento con questo editore, ho un problema di contrattazione, e in questo modo si crea anche un rapporto di fiducia che prima era ovviamente inesistente, perché il rapporto semplicemente non esisteva, e anzi c'era più l'idea, diciamo, di come dire, di essere in competizione con gli altri freelance. Non li conosco, non so chi sono, magari mi portano via il lavoro. Invece in questo modo hanno una faccia, hanno un volto, ed è in questo modo anche che siamo riusciti a, appunto, a costruire il principio di una coalizione. E in questi anni abbiamo fatto tante cose, cominciamo a vederle un pochino alla volta. Passo la parola a Giulia per le prime. Sì, allora, come ha detto Giulia, l'approccio trasversale è una caratteristica di Redacta fin dall'inizio, che si accompagna anche a una vocazione all'inchiesta permanente. Redacta è nata proprio come un'inchiesta permanente sulle condizioni del settore editoriale. Però intorno a questa indagine c'è sempre stata una forte volontà di coinvolgere attivamente i lavoratori e di costruire un'identità collettiva che passasse anche attraverso una componente simbolica molto importante. Per cui abbiamo organizzato alcuni eventi che ormai sono entrati nella storia di Redacta, dalla Via Crucis editoriale, dove siamo andati in giro per la città portando una rappresentazione cristologica, non cristologica, della nostra passione, che è sempre un po' un'arma a doppio taglio, quello che diceva prima Giulia, no? Questa componente vocazionale che in qualche modo concorre al ribasso dei compensi. Abbiamo portato una lettura di tarocchi molto poco convenzionale all'interno degli uffici della provincia di Milano. Quindi diciamo che questo approccio un po' informale, sperimentale, ha da sempre caratterizzato le iniziative di Redacta fin dall'inizio, ed è un approccio anche che permette di in qualche modo creare questa identità tra lavoratori e anche di farsi sentire, quindi anche un impatto sulla controparte, nella misura in cui qualcuno ci sta ascoltando e stiamo portando le nostre istanze, stiamo dandogli voce. Abbiamo fatto anche degli eventi nell'ottica di essere solidali con tutta la filiera del libro, perché quello che pensiamo è che sia importante anche allargare sempre lo sguardo, quindi ci siamo interessati ad altri settori, ma abbiamo fatto anche degli eventi, tra cui Cartalotta proprio qui al Cox, con i rappresentanti dei lavoratori della distribuzione. Abbiamo fatto degli eventi con i librai, abbiamo fatto delle firme in solidarietà di Grafica Veneta, siamo stati da GKN, quindi insomma l'approccio è sempre quello di tenere lo sguardo allargato e diciamo in quest'ottica di coinvolgere attivamente i lavoratori e le lavoratrici e di coniugarlo al lavoro di indagine, l'anno scorso abbiamo rilanciato un nuovo sondaggio. Già il primo è stato quello con cui Redacta è nata, ma sentivamo l'esigenza ormai di aggiornarlo e di articolare meglio la nostra indagine, e quindi abbiamo lanciato questo sondaggio dal titolo piuttosto significativo, che era: vale davvero la pena di lavorare in editoria? È un sondaggio che è stato aperto per diversi mesi, da giugno a settembre 2023, dopodiché ci siamo trovati di fronte a una risposta molto importante. Abbiamo avuto 825 risposte, e questo sondaggio era rivolto a lavoratrici e lavoratori di qualsiasi inquadramento, quindi sia autonomi ma anche dipendenti, e stagisti, librai, chiunque poteva partecipare. E quindi abbiamo avuto delle risposte, era anche un sondaggio piuttosto articolato con una notevole quantità di domande, quindi siamo stati particolarmente felici di avere questo riscontro, che ci ha permesso di elaborare una serie di dati che poi abbiamo cercato di restituire. Infatti trovate nel nostro sito già delle slide che sintetizzano un po' i passaggi principali. Stiamo lavorando in queste settimane, in questi ultimi mesi, e a breve lanceremo un report completo del sondaggio. Ed è un sondaggio che evidenzia che cosa? È coerente rispetto alla descrizione del settore che faceva prima Giulia, per cui abbiamo avuto un riscontro su delle condizioni di precarietà molto diffusa, una frammentazione del lavoro molto marcata, quindi persone che fanno fatica a mantenersi. Solo la metà dei rispondenti, di coloro che lavorano principalmente unicamente in editoria, ha dichiarato che riesce a mantenersi. Quindi non daremo cifre perché saranno poi oggetto del quiz che verrà dopo, però diciamo che c'è una tendenza significativa a lavorare troppo, a lavorare tanto, si lavora tanto di sera, si lavora nei weekend a fronte di compensi estremamente insufficienti che appunto non consentono di vivere, e non consentono di vivere in città grandi, cioè dove i committenti risiedono, quindi con un costo della vita molto elevato. I lavoratori sono persone che fanno fatica a contrattare, è emerso anche molto forte questo dato. Le contrattazioni spesso non finiscono bene dove esistono, e quindi tutto questo si traduce in una situazione veramente demotivante. Alcune nostre domande volevano anche indagare questo aspetto relativo proprio alla soddisfazione. Quello che è emerso come risposte, quello che dà soddisfazione ancora in questo lavoro, è il contenuto del lavoro, la flessibilità. Di contro, quello che causa più problemi, o comunque quello che viene sofferto di più, sono la disorganizzazione e i compensi. Quindi il quadro è veramente sconfortante, perché non si tratta di lavoro che manca, il lavoro c'è ed è tanto, ma perché le persone lavorano a dei ritmi molto intensi, ma i compensi non consentono di vivere dignitosamente. Quindi sono dati che permettono di identificare dei problemi che sono sistemici nel settore. E quello che noi vogliamo fare è partire da questi dati, non solo osservarli e studiarli, ma anche offrire una base concreta per fare delle proposte che possano migliorare questa situazione. Quindi sempre nell'ottica che è quella che insomma ci riunisce anche qui stasera, di confrontarci, di parlarci, quello che facciamo sempre nelle nostre riunioni, passarci informazioni. E quindi in quest'ottica abbiamo voluto lavorare su degli strumenti che sono pratici in qualche modo. Quindi abbiamo voluto anche lanciare, no? Ad aprile abbiamo fatto questo lancio di quelli che noi abbiamo chiamato 3 satelliti, che sono appunto il sondaggio, una guida ai compensi dignitosi e un redalgoritmo, che è un tool online che permette di calcolare dei preventivi sulla base dei compensi dignitosi. E li abbiamo lanciati insieme proprio in virtù di questa nostra convinzione che all'indagine deve anche corrispondere uno strumento pratico di miglioramento, tutto questo ci serve per colmare una lacuna esistente nei riferimenti e anche per avviare un dialogo con la controparte, cioè per in qualche modo mettere le basi per un discorso condiviso anche con la controparte, perché no, con le istituzioni. Ok, messaggio. E sì, quindi appunto 3 satelliti li abbiamo chiamati: il primo è il sondaggio, il secondo è la guida ai compensi dignitosi di Redacta. La potete scaricare gratuitamente sul nostro sito, che è www.actenrete.it/redacta, e oppure se la volete fisica c'è un banchetto là in fondo che con un contributo minimo di 8 euro potete portarla a casa. Questo è uno degli strumenti di cui adesso vi parlo un po', e l'altro è Redalgoritmo, ha già anticipato Giulia. È una web app che permette di calcolare istantaneamente un preventivo online sulla base di questi conti che sono riportati nella guida. Quindi uno può prendere carta penna e farselo da solo, oppure può aprire l'algoritmo e farlo con l'ausilio di questo tool. E mi preme dire semplicemente che ovviamente chi compila sta inserendo delle informazioni dentro l'algoritmo, ma Redacta non trattiene nessuna di queste informazioni, perché i calcoli avvengono in locale nel browser appunto di chi sta facendo il calcolo. Quindi questo per noi è importante, sempre a livello di insomma trasparenza. Quindi sono degli, come ha detto Giulia, vogliono essere degli strumenti di riferimento concreto per i freelance, ma anche per i dipendenti in generale, per tutti quelli che lavorano nel settore editoriale. Come è nato questo progetto? Avevamo già fatto un progetto di compensi dignitosi quando siamo nati, era modesto, nel senso che partiva dai risultati del sondaggio, e eravamo riusciti a trarre alcune informazioni su 3 o 4 delle maggiori prestazioni che svolgiamo regolarmente, e su queste avevamo fornito un compenso dignitoso e basta, era finita lì. Diciamo, col passare degli anni c'è stata l'esigenza di fare un lavoro un po' più un po' più corposo, soprattutto per un motivo, perché ci siamo resi conto che la questione non è soltanto che i compensi sono bassi, ma che il nostro lavoro soffre, diciamo, di un'ambiguità di fondo legata alle prestazioni che ci vengono affidate, e se non risolviamo quella, cioè se non ci diciamo fra di noi che cos'è una prima bozza, che cos'è un'impaginazione di un libro illustrato, è difficile superare lo sfruttamento. E quindi abbiamo creato un gruppo di lavoro che si è riunito per 2 anni, la prima riunione l'abbiamo fatta qui all'archivio Primo Moroni, e quindi appunto un gruppo di lavoro che si è riunito per 2 anni, composto sia da freelance che da dipendenti, molto diciamo dalla formazione molto variegata, per cui c'erano dipendenti che lavorano all'interno di grandi case editrici, dipendenti che lavorano in case editrici indipendenti, che arrivano dal settore della diciamo della varia oppure dell'editoria per ragazzi. La stessa cosa riguardava i freelance, freelance che si occupano di diverse mansioni, non solo redazione ma anche grafiche, e addirittura anche freelance che poi sono diventati dipendenti o viceversa. E questo ci ha permesso di avere un approccio diciamo molto completo, il più completo possibile, e a questo lavoro che è stato appunto intenso ma che ha dato grandi soddisfazioni proprio in questi risultati. Quindi che cos'è, perché abbiamo dovuto fare una guida e non banalmente una tabella? Un po' per, come dicevamo prima, per descrivere al meglio il nostro lavoro. Quindi se prendete la guida, di fatto trovate l'elenco delle prestazioni e sotto forma di una breve definizione e a tutta pagina, e poi praticamente che cosa comprende effettivamente questo tipo di lavoro e che cosa invece spesso ci chiedono di fare ma non è compreso, è un extra. E tutte queste voci hanno di fianco una, appunto, una dicitura della tariffa dignitosa che abbiamo calcolato. E in fondo alla guida però abbiamo anche proposto una proposta di compensi dignitosi, di conteggio di compensi dignitosi orari, perché sappiamo che non tutti i lavori editoriali vengono appunto pagati a cottimo, ma alcuni sono pagati a ore lavorate, e trovate le istruzioni per utilizzare il redalgoritmo e anche il metodo che abbiamo utilizzato per calcolare questi compensi dignitosi. E diciamo che questi strumenti appunto sono un punto di partenza per noi fondamentale, e però sono anche come sempre passibili di miglioramento. Già adesso abbiamo avuto dei riscontri molto positivi e sorprendono, li vedrete dopo, soprattutto nel quizzettone ci sono un paio di esempi, e sorprendono anche le note positive che ci arrivano dai dipendenti, quindi il fatto magari che ci dicano sì, effettivamente io mi trovo a dover calcolare dei progetti complessi, non saprei da dove partire, il vostro è un buon riferimento. Oppure altri dipendenti che semplicemente ci dicono ma quindi io quando ti davo 1 euro a cartella era veramente poco, perché se adesso mi dici che devo dartene 2,50, quindi vedi che effettivamente persone che non hanno mai lavorato cottimo, non hanno mai avuto una partita IVA, non sono abituate a ragionare in termini di lordo, capiscono ora che effettivamente quelle cifre lorde sono veramente basse. E niente, sono per noi dei parametri che consideriamo, insomma, volevamo offrire dei parametri il più possibile obiettivi per definire proprio il valore del lavoro sia per i dipendenti che per i freelance. E questi sono i progetti che appunto abbiamo svolto questa primavera, però anche l'autunno ci ha portato grandi soddisfazioni, per cui adesso sì. Giulia vi racconta l'ultima cosa che l'ultimissima cosa fatta, che è stato così un cogliere la palla al balzo, ed è coinvolto l'antitrust, quindi ancora un caso di coinvolgimento nostro dei lavoratori, ma anche un approccio non convenzionale, perché appunto un sindacato che all'antitrust si rivolge e non lo maledice, o quantomeno lo maledice sottovoce, è un approccio non convenzionale. Cos'è successo? L'antitrust, che è l'autorità garante della concorrenza e del mercato, pensa di avviare un'indagine conoscitiva sul mercato dell'editoria scolastica, che è un mercato con delle peculiarità. In particolare si vuole concentrare sul prezzo delle pubblicazioni destinate a scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Ora, chiaramente l'indagine dell'antitrust vuol fare chiarezza sul prezzo del libro e su tutta una serie di problematiche che girano intorno al libro scolastico, quindi le modifiche frequenti delle edizioni, le modalità di distribuzione, tutte quelle rigidità, insomma, che riguardano le adozioni che, insomma, probabilmente tutti noi abbiamo presente, anche perché è un mercato, quello dell'editoria scolastica, che è pari a circa 1 miliardo di euro l'anno e coinvolge 7 milioni di studenti, 1 milione di docenti, quindi è una cosa insomma di cui ha senso occuparsi. Ora, il mercato dell'editoria scolastica è molto particolare, dicevo, perché il 70% del mercato è fatto da pochissimi gruppi editoriali, pochissimi editori, Sanoma, Mondadori, Zanichelli, Giunti, La Scuola, e quindi questi detengono da soli il 70% del mercato. Quindi c'è una simmetria estremamente marcata, e soprattutto in un contesto in cui di solito si potrebbe applicare la contrattazione collettiva, cioè un contesto di questo tipo tradizionalmente viene contrastata dalla contrattazione collettiva, ma nel caso del lavoro autonomo siamo ancora molto indietro, quindi questa cosa non è ancora operativa. E quindi col risultato che i lavoratori si trovano ancora più privi di tutele, se possibile. E qui si inserisce Redacta, perché Antitrust ha appunto, in vista di questa indagine che condurrà, aperto una consultazione. Quindi c'è stato pochissimo tempo per farla e noi abbiamo risposto a questa consultazione, perché vogliamo mettere in luce il fatto che questa concentrazione di cui Antitrust si vuole occupare non ha solo impatto sul prezzo del libro, ma ha impatto anche sul lavoro di chi i libri li fa, quindi in qualche modo ribaltando la prospettiva dell'Antitrust. E quindi cosa abbiamo fatto? Dato il poco tempo a disposizione, abbiamo cercato di fare un po' una chiamata alle armi tra i nostri contatti, tutte le persone che conosciamo che lavorano in editoria scolastica, grazie alle nostre indagini sul settore, grazie alla nostra rete. E ancora una volta questi lavoratori e lavoratrici ci hanno accordato una grande fiducia, si sono mobilitati e hanno condiviso con noi i loro contratti di lavoro. Tra l'altro l'editoria scolastica è uno dei pochi settori regolati da contratti, perché le figure che si occupano dei libri di scolastica spesso sono anche figure quasi autoriali, quando non del tutto autoriali. Quindi quello che abbiamo fatto è stato passare in rassegna questi contratti e vedere, ci siamo resi conto che sono tutti molto simili, se non uguali, e quello che ricorre sono delle clausole, delle condizioni che sono estremamente vessatorie, cioè, e che evidenziano comunque un forte squilibrio tra le parti. Vi faccio degli esempi: ci sono delle clausole di non concorrenza. Ciò significa che a fronte di una preparazione anche estremamente specialistica di un autore, pensate a un esperto di storia che si occupa di libri per ragazzi, quindi coniuga dei contenuti anche al modo in cui questi contenuti sono veicolati, quindi una forma, sa come tradurre questi contenuti per una determinata fascia d'età, quindi un'iperspecializzazione. Il contratto, la clausola prevede che non può essere spesa in altri, presso altri committenti, quindi di fatto tarpando le possibilità del lavoratore di applicare la propria professionalità altrove. Oppure le royalties sono inadeguate quando ci sono, oppure sono nulle, c'è una cessione indiscriminata di tutti i diritti per 20 anni, per la durata del contratto, quindi tutti i diritti secondari, cioè per tutto quello che è diritti secondari o rielaborazioni dei contenuti per magari un aggiornamento o un'altra edizione che comunque riprende quei contenuti lì, non viene riconosciuto assolutamente nulla. C'è il giudizio insindacabile della validità del lavoro da parte del committente, quindi insomma tutta una serie di clausole che evidenziano ancora di più questa simmetria fortissima tra committenti e lavoratori. Ora, cosa ci aspettiamo un po' da questo lavoro, da questa segnalazione che abbiamo fatto ad Antitrust? Allora, intanto noi siamo riusciti ancora una volta ad attivare i lavoratori e in qualche modo a condividere delle informazioni, a mappare queste clausole, quindi ancora una volta un passaggio di informazione e di consapevolezza della situazione è stato fatto. Speriamo di attirare attenzione pubblica su questo, quindi ne scriveremo, adesso dobbiamo mettere un po' su piazza quello che abbiamo verificato, e quindi intanto queste sono cose che abbiamo fatto. Certo, vediamo ora se poi l'antitrust vorrà in qualche modo intervenire, sarebbe sicuramente una cosa importante in qualche modo per evidenziare e mettere in luce ancora di più questo squilibrio tra aziende e lavoratori di fatto non organizzati per la contrattazione collettiva. Quindi questa è proprio fresca di questo ottobre, parliamo proprio di 20 giorni fa. L'ultimissima. E cosa ci aspetta? È una domanda che ci facciamo anche noi tutti i giorni. E no, allora, abbiamo detto che appunto lavoriamo, abbiamo un approccio molto sperimentale, quindi lavoriamo cercando anche di raccogliere le istanze delle persone che vengono a riunione, quindi questo è secondo me il futuro, che, insomma, a breve termine che ci attende. E quindi raccogliere anche questi feedback che stanno arrivando sui compensi dignitosi e capire se questo modello è esportabile. Sicuramente ci piacerebbe farlo per il settore dell'editoria scolastica, visto che per il momento questo riguarda solo il settore della varia, e poi anche, perché no, esportarlo in altri settori, visto che Redacta comunque fa sempre parte di Acte, quindi una guida del genere potrebbe servire, con le debite ovviamente studi e tutto, anche in altri settori. E basta, poi dobbiamo cenare, rispondere a un quizzettone e poi ballare. Grazie. Signore e signori, parte il quizzettone. Vi chiediamo l'attenzione. Ok, allora ci sentite abbastanza bene? Sì, buonasera a tutti e tutte e benvenuti e benvenute a questa prima edizione del quiz di Redacta. In realtà, se qualcuno ci segue già sa che l'abbiamo presentato in formato un po' diverso. Giulia, riesci a abbassare un po' la musica? Ok, grazie, l'abbiamo già presentato in una versione diversa durante il Salone del Libro quest'anno, ma oggi ve lo riproponiamo sotto un'altra veste, e dato che la festa è per l'editoria che combatte contro l'editoria che sfrutta, quindi che schifo i soldi, parliamo proprio di questo. Che schifo! Allora, il quiz quindi è ok, ma il prezzo è giusto? Eccoci qua! Io sono Veronica. Io sono Sofia. E noi presenteremo oggi il quiz. Poi abbiamo Giulia che è alla regia. E poi c'è Silvia che avrà un suo ruolo di valletta durante il gioco. Adesso facciamo un piccolo sondaggio per capire che pubblico abbiamo davanti. Quindi vi chiederei per alzata di mano chi è che lavora ad oggi in editoria. Ok, un bel po'. Chi è che ci vorrebbe lavorare? Cioè, che attualmente non ci lavora ma le piacerebbe lavorare. Chi non ci vorrebbe lavorare più? Ok, a posto. Chi è solo di supporto? Ottimo. Bene. Supporto è importante. E chi si trova qui per caso? Ottimo. Ottimo, abbiamo un pubblico variegato, ci piace. Bene, bene, bene. Ok, vai Sofia, presentiamo il quiz. Allora, siamo qui a fare questo quizzettone e vi spiego un po' come funziona, come è strutturato il gioco. Allora, come prima presentavano Giulia, il lavoro che Redacta ha fatto, Giulia, il Redacta ha fatto in questi ultimi anni, questo quiz verterà un po' sui tre satelliti che Redacta ha lanciato in orbita negli ultimi tempi. Quindi una prima parte del quiz sarà focalizzata sul sondaggio. E saranno 7 domande, e tutte quante relative al sondaggio, ai dati che sono emersi, Tutti i dati che abbiamo e che verranno illustrati e ai quali voi sarete chiamati a rispondere, a dare delle risposte, delle domande, sono tratti con, cioè, sono presi dal sondaggio, e le fonti sono quelle, documentati. Sono documentati e tutti i dati possono essere, se vi interessa, consultati, sono tutti online, fruibili e consultabili sul sito di ACTA, o se scrivete banalmente sondaggio Red ACTA lo trovate. La seconda parte del sondaggio invece riguarda guida ai compensi dignitosi, questa, e Red Algoritmo. Tra l'altro, se fosse possibile far girare un paio di guide in sala potrebbe essere utile, sono un paio, due, quelle che volete, così potete anche sfogliarle se siete curiosi, e vi ricordo che sono anche acquistabili al banchetto là in fondo insieme a delle bellissime borsine imperdibili che consiglio a tutti di... A prezzi popolari. E quindi, giusto perché il Red Algoritmo, ne abbiamo parlato prima, qualcuno di voi l'ha mai usato finora per capire un po', appunto, se il prezzo era giusto, per capire, per fare un preventivo? Per alzata di mano, quante persone hanno mai usato il Red Algoritmo? Ok, poche, bene, male. Non c'è problema, perché stasera avrete l'occasione imperdibile di utilizzarlo anche voi più tardi nella parte finale del sondaggio, dove ci sarà così un momento interattivo. E niente, quindi come funziona? Funziona per alzata di mano, noi proietteremo delle slide con delle domande a risposta multipla, quindi la domanda sarà: chi pensa che sia giusta la risposta A? E si alzano le mani per la risposta A, la B, la C, avanti così, molto facile. E per ogni risposta corretta, chi dà la risposta corretta avrà un punto che si concretizza in quel tagliandino che la nostra Silvia porterà ai... diciamo, a coloro che indovinano la risposta. Ma la prima persona che risponde, no, allora ne abbiamo anche altri, poi ci fidiamo, uno può anche segnarsi sul retro del tagliandino gli altri punti e poi alla fine si farà un conteggio, perché poi in caso di parità ci sarà uno spareggio, insomma è un quiz vero, siamo qui a presentare un vero format di televisivo praticamente. E niente, alzare la mano lo sappiamo fare tutti, facciamo una prova, alzate la mano, bravi, dai un applauso e possiamo iniziare. Ah, dimenticavo una cosa importantissima, non è che siamo qua a fare un quiz senza un senso, ci sono dei premi, ricchi premi, segreti, ma verranno svelati a momento debito, sono imperdibili, io li consiglio a tutti e possiamo incominciare. Cominciamo, ok. Allora, la prima parte del quiz è focalizzata sulle domande del sondaggio, quindi è relativa a ricostruire il profilo di chi lavora in editoria, diviso in quattro sezioni, che sono chi, quando, quanto e come. Adesso, nelle slide ci sono delle domande, io le leggo, leggo le risposte, per alzata di mano tentiamo, ok? Va bene, cominciamo con la prima. Ok, allora, chi lavora in editoria? Qui abbiamo due domande, comincio con la prima. Quanti anni ha, secondo voi, la maggior parte delle persone che lavora in editoria? A, più di 50 anni, B, tra i 30 e i 40, C, meno di 30 e D, gli anni che ha. Allora, non siamo timidi né timide, quindi qualcuno alzi una mano. Allora, chi pensa che la maggior parte delle persone che lavorano in editoria abbia più di 50 anni? Sulle mani per la risposta A. Ok, ricordatevi quello che avete votato, perché non possiamo ricordarci tutti, ok. Chi pensa che abbia tra i 30 e i 40 anni? Ok. Meno di 30? Ok. Gli anni che ha? Tutti, insomma, ognuno ha gli anni che ha, ecco. La risposta giusta forse è la di... No, non lo diciamo. Okay, andiamo alla seconda. Quale percentuale ha intrapreso percorsi di formazione specifici per lavorare in questo settore? A, circa il 30%, B, il 50%, C, il 70% o D, il 100%? Risposta A, circa il 30%. Okay. Risposta B, il circa il 50%. Risposta C, circa il 70%. E D, circa il 100%, che non è circa quindi, perché... però 99,9. Esatto. Okay, ok, allora, mi alzate la mano chi alla prima domanda ha risposto C? Voi avete vinto il vostro primo punto. Ok, andiamo alla prossima slide. Aspetta, dobbiamo dare i punti. Ok. Ah, giusto, perché la risposta, scusami, scusami. Ok, la risposta esatta in entrambi i casi era la C, quindi chi lavora in editoria è nato tra l'84 e il 95, quindi ha intorno ai 30 anni e, ha, e per il quasi 70% dei casi ha intrapreso percorsi specifici per lavorare in questo settore, il che significa, per le persone che ci lavorano lo sanno, non soltanto investire economicamente nei master e nelle scuole, ma anche investire emotivamente in un'aspettativa. Che è successo? Ok. Quindi chi ha risposto C a entrambe le domande vince ha vinto un punto, un tagliandino. Alzate le mani le persone che hanno risposto C alla domanda A e alla domanda B. 1 e 2. È difficilissimo, un sacco di lettere. Entrambe, se no non vinci. Eh no. Tutte e due? Adesso arriva il tuo punto. Alzate le mani, mani su, chi l'ha vinto? Chi ha il punto? Sì, c'è la Silvia. Perfetto, tenetelo, tenetelo da conto. Ok, passiamo alla prossima. Anzi, c'è cioè prima un piccolo disclaimer. Ok, lei è la tipa che saluta la sua regione di provenienza prima di partire alla Volta di Milano, piena di entusiasmo per l'editoria. Perché è una tipa? Perché la maggior parte delle persone che lavorano in editoria è donna. Cosa numero uno. Cosa numero due, abita nel circa 36% dei casi, no in realtà 48, quindi quasi 50, in una città grande, chiaramente Milano è in cima alla lista. Una piccola parentesi su quello che è emerso dai dati del sondaggio relativamente al gender pay gap, cioè che a parità di posizione di ore lavorate il reddito medio annuo netto di una donna è del 18% inferiore rispetto a quello degli uomini. Quindi anche qui la situazione non è delle migliori. Vai. Ok, quando? Ok, adesso ci interroghiamo su quando lavorano le persone che lavorano in editoria. Quante persone lavorano spesso o sempre nel weekend, quindi nel fine settimana? A, almeno la metà, 50%, B, le solite sfigate, 5%, C, solo io, lo 0, periodico 1%, di il weekend non è feriale, quindi il 100%. Risposta A. Risposta okay. B. Risposta C. E risposta D. Ok, poi la quarta domanda è: qual è la percentuale di chi lavora spesso sempre di notte? A, vale il fuso orario, B, il 15%, C, il 25% e D, il 505% che vale come SOS. Risposta A, risposta B, risposta C e risposta D. Ok, vabbè, qui non siamo andati tutti benissimo, sì. Ok, la risposta esatta è la A, il 40% di chi lavora unicamente nel settore editoriale dichiara di lavorare spesso nel weekend più del 10% sempre. Mentre per la C, il 15%, quindi non il 25% rispetto alla maggioranza, lavora unicamente, chi lavora unicamente principalmente in editoria confonde il giorno con la notte. Ok, quindi chi ha risposto bene ad entrambe le domande? Alzare le mani? Ok, distributrice di punti. Si screma, beh, poi si screma, certo. Sì, era la B, la seconda. Ah sì? È un refuso? Un refuso. Cosa? Vabbè, c'è stato un refuso. Perché confondere il giorno con la notte porta esattamente a questo. Un sacco di persone, bravi, bravi. Ma serve un notaio. Serve un notaio. Sì. Aspetta. C'è anche Mattia adesso che fa il balletto. Grazie. Ok, andiamo alla prossima slide. che la tipa è arrivata a Milano e già esausta, l'entusiasmo è acqua passata, la movida è improvvisamente diventata lavorare fino alle 2 di notte, anche lei non si sente tanto bene. Questo perché? Perché sempre secondo i dati del sondaggio, circa il 45% di chi ha risposto lavora più di 8 ore al giorno durante la settimana. Ok, andiamo al prossimo. Quanto? Ok, qua arriviamo alla domanda clou. E il reddito mediano, netto annuo di chi lavora solo in editoria per tutti i tipi di contratto, quant'è? A, supera la soglia di povertà? B, direi un bel 30.000 euro? C, non ci arrivi a 50.000? E D, circa 17.000 e sto. Risposta A? Risposta B? Risposta C? E risposta D. Ok, andiamo alla risposta. Ok, siamo a 17.660 euro. Il 2.4% raggiunge o supera i 50.000, mentre il 9.% non supera i 5.500 euro. Il reddito cresce al crescere dell'età e dell'esperienza lavorativa, ma colpo di scena, la crescita si ferma intorno ai 50 anni, che corrisponde più o meno a 20 anni di esperienza. Questo significa che l'esperienza, che è difficile da valutare, non viene affatto considerata, quindi non è facile fare carriera all'interno di questo settore. Qui nessuno è stato attento. La maggior parte delle persone ha indovinato. Quindi forse questa la boniamo. Sì, la boniamo. Un punto a tutti, allora, se volete segnarvelo, perché non abbiamo abbastanza tagliandini. Ok, tipo che lavora da qualche mese al Magic Mondo editoriale, si butta in strada per andare a ritirare, l'ATM non funziona, sbuffa, probabilmente chiamerà la mami per ricaricare la postpay. Questo perché? Perché nel sondaggio noi abbiamo chiesto: riesci a mantenerti con questo lavoro? Adesso nel quasi 50% dei casi la gente ci ha detto sì. Poi abbiamo un 9% no, un 6,3% di chi è entrato non da lavoro e un 34,4% di chi invece riceve soldi dai genitori o dai partner. Arriviamo all'ultima, quindi abbiamo il come. Quanti tra autonomi e autonome non firma quasi mai o mai un contratto? Questo perché, piccola parentesi, nel 2/3 dei casi di chi lavora in editoria lo fa come libero professionista. Quindi siamo nel 30% quasi di partite IVA, chi in diritto d'autore pochissimi in co-co-co, e una minima percentuale invece lavora come dipendente con contratto indeterminato. Quindi parliamo di persone che lavorano per lo più come autonomi. Quindi chi non firma mai o quasi mai un contratto? A, lo 0%, quindi l'editoria come rispetto e formalità. B, meno del 15%, l'editoria come sarà soltanto un po' di lavoro in nero. C, meno del 30%, c'è di meglio ma c'è anche di peggio. Oppure più del 30%, l'editoria è praticamente un far west. Risposta A. Risposta B, risposta C e risposta D. Ok, andiamo alla prossima. Il 60% delle persone che ha risposto ha un'elevata dipendenza economica da un cliente, questo significa che lavorano, che il lavoro glielo fornisce un cliente solamente, nel 60% dei casi. Chi è che decide i compensi? A, il committente, B, il lavoro è mio, decido io, C, la contrattazione è discreta, mentre D, la contrattazione è limitata. Risposta A, risposta B, C. Ma nessuno ha detto la B. Risposta C e risposta D. Ok. Bene, la risposta era la D, quindi l'editoria è la Far West, non firma mai, quasi mai un contratto, il 36,2% tra autonome e autonome. Quindi chi non è il settore... Chi non è del settore si chiederà in che modo si lavora in editoria allora, come si accetta nei lavori attraverso le chiamate, le mail, i WhatsApp. Mentre nell'altro caso la risposta esatta è la A. Quindi i compensi li decide per lo più il committente, ma dal sondaggio sono emersi dei dati interessanti. Chi ha più clienti ha maggior potere di contrattazione perché ha una dipendenza economica minore rispetto ad uno solo, chi ha un solo cliente invece non può quasi contrattare e chi non ha margine di contrattazione guadagna di meno. Questo significa che chi prova a contrattare guadagna di più. Olè. D e A. Sì, ma alcuni non valgono. Ok. Ok. Bene. Vai. Vai. Questa è la tipa che ha capito che chi non risica non rosica e che chi non contratta compie una malefatta. Ok, quindi a questo punto che fare? Questa è la domanda a cui tenteremo a questo punto di dare una risposta. O perlomeno tenteremo di raccontarvi, sempre con questo bel quiz, tre casi, tre esperienze. Vai pure avanti. Allora, questo è solo per fare un attimo un recap di questa guida che sta, spero, girando tra voi. Come è fatta? Ha una descrizione della prestazione, ha un compenso definito per quella prestazione, ha un dettaglio che cosa comprende quella prestazione e ha degli extra che tante volte non vengono considerati, vengono dati per scontati, mentre invece sono assolutamente da quantificare a parte. Quindi io vi racconterò tre esempi. I primi due, devo dire, lo ammetto, sono presi dalla mia esperienza personale, ve li racconto perché così mi sembrano significativi. Possiamo procedere? Il terzo invece viene da un'altra persona, ci arriviamo dopo. Allora, come fare quando ti arriva una proposta e tu non sai se il prezzo è giusto? Ti rivolgi all'area d'algoritmo o alla guida, ma l'area d'algoritmo è più facile perché ti fa già i conti. E sappiamo benissimo che tutti noi che lavoriamo in editoria non abbiamo fatto matematica. Bene. Allora, il caso numero uno, molto brevemente, si tratta di un testo nero che significa senza illustrazioni, di un'attrice italiana, quindi è un testo nella mia madrelingua che non è stato tradotto, è italiano. Cartelle sono 234, per dirlo se per caso qualcuno lo sa, una cartella editoriale è una pagina di 2000 battute spazi inclusi, quindi 234 cartelle sono un bel malloppino. Le pagine che poi sviluppano queste cartelle una volta impaginate sono 320. Che cosa mi hanno chiesto di fare su questo lavoro, su questo libro? Mi hanno chiesto di fare un lavoro di redazione che, posso leggervi velocemente che cosa significa. Dalla guida. Allora, il testo può arrivare direttamente dall'autrice oppure può essere stato sottoposto a una fase di macro editing, a un ghostwriting o infine a una revisione di traduzione nel caso in cui sia un testo straniero. La lettura è mirata soprattutto a risolvere questioni redazionali e non di contenuto, quindi è una lettura, diciamo, formale, volta a risolvere problemi di forma più che di contenuto. Il contenuto in questa fase deve essere quindi già stato approvato, quindi se io ricevo un libro e ci sono scritte delle cose false, probabilmente c'è non stato un problema nella responsabilità. Non è mia responsabilità, uno. Due, probabilmente c'è stato un problema prima e vabbè, si segnala, ok. Le proposte che a me, insomma, chiunque faccia un lavoro redazionale, le proposte relative ai controlli e alla sistemazione di frasi e ripetizioni devono perciò essere limitate, altrimenti si sfocia nell'editing che ha un altro compenso, ha un'altra cifra, insomma, stabilita. Il lavoro si svolge preferibilmente prima che il testo sia impaginato, va bene. Il compenso previsto dalla guida per questa prestazione sono 5 euro a cartella. Quindi mi chiedono di fare redazione, mi chiedono di fare una lettura di bozza, che non vi sto a leggere tutta la definizione, comunque è un'ultima lettura per andare a scovare gli ultimi refusi, ortografia, virgole, magari, non so, è sfuggito un numero di pagine saltato, cose del genere. Stesura dei testi di quarta e delle alette, quindi il testo che trovate nella quarta di copertina o nelle alette, quindi una sinossi fondamentalmente. e un controllo del PDF per la stampa. Quando è tutto pronto, il PDF mi arriva, io faccio un ultimo controllo e poi dico ok, questa cosa può andare in stampa. Allora, secondo voi, qual è stata la proposta per questo tipo di lavoro? 500 euro, 1000 euro, 1500 euro o 2000 euro? Chi vota 500? Chi vota 1000? Chi vota 1500? Chi vota 2000? Abbiamo un ottimista. Quest'anno, 2024, è successo un mese fa. Allora, loro mi fanno questa proposta. La proposta che mi fanno è di 500 euro. Chi ha detto 500 euro ha vinto un punto. Tutti! Ne abbiamo abbastanza? Distribuiamo i punti e andiamo allo step successivo. Dopo. Sulla prossima slide. Scusa. Allora, mi propongono 500 euro e io dico, ok, ma il prezzo è giusto? Aspetta, Sofì, ci aveva una domanda. Oddio, scusate. Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo mi ci vuole a me per fare questo lavoro? Beh. Allora, è molto difficile da dire perché ovviamente non fai solo quel lavoro lì, però diciamo che per tutte le singole parti io direi almeno 3 settimane, non un mese, ma 3 settimane, sì. Una settimana per leggere la redazione. Lordo, sì, assolutamente. Proposta lordo e vai. Quindi io mi dico, ok, 500 euro, bella lì, ma il prezzo è giusto? Allora, sotto. E allora io dico, andiamo a vedere se è giusto o no. Speriamo che funzioni, sì. E allora apro il Red Algoritmo, questo meraviglioso strumento, e andiamo a vederlo se il prezzo era giusto o no, perché il dubbio c'è, magari era giusto e sono io che ho delle pretese, no? 234. Allora, possiamo spuntare, se mi assiste la regia. Le esatto. Pagine quante erano? 320 pagine, okay. E spuntiamo redazione. No extra. Seconda bozza, perché mi chiedono proprio un'ultima lettura. Inserimenti e riscontri, anche prima forse non ho nominato, però inserimenti e riscontri delle correzioni, quindi... Erano scritti, ok, non li ho letti. Testi di quarta e alette. Esatto. E controllo PDF per la stampa. Esatto, una sola volta, sì. Andiamo a vedere se il prezzo era giusto. Oh, non era giusto! Allora uno cosa fa? Dice, vacca boh, cioè... 2159 contro 500, cioè non stiamo parlando di bruscolini, è un quarto. Allora, niente, io porto questo esempio in realtà per giocare, per divertirci, ma per dirvi che ho provato a contrattare e questa cosa ha funzionato, perché ho provato a parlare con la mia caporedattrice e le ho detto, guarda, la situazione è questa, cosa posso fare? Cioè, dimmi tu. E la cosa bella e incredibile è che per questo lavoro alla fine mi hanno pagato 1400 euro, che non è 2100, ma è comunque più del doppio. Avanti col secondo esempio. Domanda? Non si può dire. Si dice il peccato non il peccatore. No, se volete lo dico, però ve lo dico dopo in privato. Avanti col secondo esempio. Allora, più velocemente, perché in realtà è lo stesso tipo di lavoro, perché io faccio sempre lo stesso tipo di lavoro, su tutti i libri, non mi diverto mai, mi annoio. Allora, un testo tradotto questa volta, con illustrazioni, cartelle 94, pagine 320, quindi un po' più snello come fogliazione, come quantità di testo, diciamo. Mi chiedono sempre redazione, lettura di bozza, inserimenti e riscontri delle correzioni, testi di quarta, niente alette, perché era un libro cartonato, quindi non ha le alette, e controllo PDF per la stampa. Allora, secondo voi, qual è stata la proposta? 300 sulle mani. 500? 800? 1000? Allora, io mi sono detta, sentiamo qual è la proposta. E loro mi hanno detto che la proposta questa volta era 800. Vai coi punti, eh no, ma infatti vai coi, è una storia bellissima, vai coi punti, è una storia di successo. Chi è che ha detto 800? Nessuno? Una persona. Un punto laggiù. Sono stati due volte al ristorante. Due volte al ristorante, sì. Allora, vediamo, mi sono detto, vabbè, 800, vabbè, 800. Ho detto, ok, ma il prezzo sarà giusto. E ho provato a fare di nuovo il lavoro con l'algoritmo. Quindi, 94 cartelle, 208 pagine. Redazione. Lettura di bozza, seconda sempre, sì. Inserimenti e riscontri, una volta. Testi di quarta senza lette. E controllo okay. PDF per la stampa. Vediamo se il prezzo era giusto. Oh, quasi! Quasi! Quasi, giusto. Quasi! Quindi io porto questi due esempi perché è lo stesso editore. La prima volta è andata così e io ho detto, vabbè, no, che cacchio è. La seconda volta è andata così. Ora, non è esattamente quello che nel mulino che vorrei, che la guida mi dice è questo e la fatalità è quello. Però ci stiamo avvicinando. Quindi scoprire questa cosa con questi strumenti nuovi, ragazzi, funzionano. Quindi è difficile, lo sappiamo, però provare vale la pena sempre. Ora faremo un terzo esempio. Un terzo esempio che mi viene da un'altra persona, che non sono io perché è un lavoro più grafico, ma andiamo a vederlo perché ci poi porterà a fare un'altra riflessione. Caso numero 3, un testo illustrato di 160 pagine, la richiesta è di fare un adattamento di formato del testo illustrato, inserire le correzioni, controllare il PDF per la stampa, inviare il PDF di stampa allo stampatore e il coordinamento, perché questa cosa in realtà del coordinamento dovrebbe esserci sempre, secondo me, perché alla fine, bene o male, a meno che non ti chiedano solo la lettura di bozza, tu devi sempre sentirti con persone, mandare mail, chiedere, fare, per cui importante. Dunque, qual è stata la proposta per questo lavoro? Quindi qua nessuno ha dovuto leggerlo, cioè qualcuno l'ha letto, ma non all'interno di questo compenso. Quindi il libro non è stato letto all'interno di questo preventivo, perché qui non c'è scritto da nessuna parte, però è su un lavoro di sola impaginazione, quindi adattamento illustrato è un tipo di impaginazione un po' più semplificata. E qual è stata la proposta? 100 euro, 300 euro, 500 euro, 700 euro. Aspettate un attimo perché ho un dubbio. Scusami, no. Scusate, c'è un altro refuso. Va bene, la proposta è stata di 700 euro. Alzare le mani? No, scusate, ho detto una cazzata. No, la proposta è stata di 300 euro, scusate. Ecco. 300 euro. Scusate, l'emozione. Una buona proposta, scusate. 300 euro. E quindi, ricapitolando, abbiamo detto, andiamo a vedere, ma il prezzo è giusto? Sono allora 160 pagine. E adattamento illustrato, inserimento di correzioni, scusate, stavo guardando l'esempio prima, cioè proprio malissimo, controllo PDF per la stampa, invio dei file allo stampatore e coordinamento delle fasi di lavoro. Andiamo a vedere se 300 euro era il compenso giusto. Non lo era. Perché non lo era? Abbiamo dato i punti dei 300 euro? Scusami, mi fermo un attimo. Allora, il compenso giusto, stando alla guida, è 736 euro. Allora, qua il problema è evidente. Che cosa è stato proposto alla persona che ha fatto questo lavoro? È stato proposta la mera impaginazione del libro, il mero lavoro di impaginazione, quindi 300 euro, che sono molto vicini ai 240, più facciamo un'aggiuntina perché sì, vabbè. Ma gli extra, tutti questi extra, che non sono pochi e non sono piccoli, non sono stati calcolati. Questa cosa succede spessissimo e ovviamente è una cosa grave perché ci ritroviamo ad avere delle proposte molto inferiori rispetto a quello che poi è il lavoro che noi andiamo a fare. Quindi, al netto di tutto ciò, prima di proseguire con l'ultima parte di questo gioco, la riflessione che propongo, molto semplicemente, è che questa cosa funziona, questi strumenti funzionano, sono una figata pazzesca ed è bene utilizzarli. Però tante volte capita che sia difficile, è difficile contrattare, è difficile avere le palle di farlo, si può imparare ma è comunque complesso, e tante volte davanti a te non trovi una persona come la mia capa, diciamo, che mi ha ascoltato e ha capito e con me è venuta a capire i motivi e quindi a propormi un compenso più adeguato la volta seguente. Gli editori sono stronzi, raga, quindi cioè, l'importante è tentare, ma tante volte non si riesce. Quindi quello che deve emergere, quello che deve, che dobbiamo fare è anche arrabbiarci. Cioè, dobbiamo, per questo terzo esempio, per esempio, non teneva conto degli extra. E quindi, cioè, noi i soldi ci fanno schifo, veramente? Ah, sì, a voi i soldi fanno schifo, quindi vi pago poco, perché tanto chi se ne frega. I soldi in realtà ci sono, solo che vengono messi in altri posti, in altre... vengono stanziati per altre cose, non per pagare chi ci lavora, chi l'editoria la costruisce giorno per giorno, notte per notte, come abbiamo visto, e fine settimana per fine settimana tante volte. E quindi, poi soprattutto, secondo me, non bisogna aver paura di dire di no, perché perdere un editore che paga così poco dà lo spazio ad un altro editore che paga meglio. Esatto. Perché gli editori che pagano meglio ci sono. Esatto. Quindi tutto questo è sbagliato, e adesso io, tutto questo è sbagliato, questa, non tutto questo, questo non il, fatto che purtroppo, tante volte sia difficile, ci si scontri contro dei muri, è sbagliato, e quindi più di provarci non possiamo fare, noi ci proveremo, lo faremo, però adesso mi piacerebbe che passassimo a un momento di rabbia, cioè tra di voi, persone del pubblico, c'è qualcuno che ha avuto un'esperienza di questo genere, cioè... mi propongono un lavoro, mi fanno una proposta economica che non è assolutamente in linea, anche senza andare a contare col redalgoritmo, banalmente lo vedo che è troppo poco per quello che mi viene chiesto. Se sì, se c'è qualcuno che vuole venire, possiamo continuare il gioco e facendovi parlare, se volete vediamo il microfono, se volete venire qua ancora meglio, per raccontarci di quella volta che il prezzo non era giusto, manco con lente di ingrandimento. E poi chiederemo al resto del pubblico chi offre di meno. Quindi si offre a qualcuno. C'è qualcuno che avrebbe voglia di venire a raccontarci, corre d'algoritmo alla mano, quindi lo facciamo proprio in diretta. Venite qui e ci dite: io ho fatto un lavoro per il quale mi hanno chiesto questo e quest'altro. E il redalgoritmo vi dice quello che avrebbe dovuto essere il compenso. Possiamo giusto. Dire che siamo in anonimato stasera. Siamo in anonimato, non si dice dato, no, assolutamente. Assolutamente. Messo da nessuna parte, pubblicato. Qualcuno che ha voglia? Così dovete solo dire cosa avete fatto e come? Ma siamo qualcuno? Timidi? Qualcuno? Nessuno? Dai, una. Allora, ti do le microphone. Allora, no, mi sa che devi tornare indietro, oggi sì, siamo esatto. Così. Allora. Sì. Allora, siamo campo ghostwriting e vi dico anche le motivazioni, mi dicono subito ti possiamo pagare poco, il libro di quest'autore che io seguo, ho fatto 10 libri con lui, è andato molto male, l'ultimo libro, quindi ti possiamo pagare poco, e già, non ha una logica. Quindi, vabbè, parliamo di un libro breve, diciamo 90 cartelle, e parliamo di un ghostwriting con tutto, quindi anche ideazione dei temi, non so, mi ricordo che c'era anche questo tema del... cioè, devo proprio fare tutto, per cui... Ma solo questo come extra o anche gli altri? Raccolta dei materiali, allora, adesso okay. Leggo meglio perché sono cieca, scusate. No, niente prova, ok. Creazione da zero del concept, direi, no vabbè, lasciamolo per pura così. Per generosità. Sì, generosità. Ideazione della trama, raccolta del materiale, riscritture, modifiche, no, strutturali direi di no. Rilettura finale va bene. E no, niente di oneroso. Comunque un autore che conosco, era più un discorso proprio di bassa offerta. Va bene. Vediamo se c'è qualcos'altro. Allora, non mi ricordo se l'urgenza l'urgenza com'è calcolata, perché io dovevo farlo in un mese e mezzo, che è un discorso, cioè bisognava andare in stampa dopo due mesi, non so. Non so, chiedo anche a voi, come esperienza comune, se c'è urgenza o no. Per me era abbastanza urgente, posto che avevo... Cioè, dai, allora, c'è, cioè, urgenza. Con urgenza? Ma infatti adesso non faccio vedere, cioè, siamo indovinati. Sì, allora, vabbè, possiamo decidere sul momento. Io farei vedere cosa esce, poi farei... E poi farei un'asta, cioè... Ma prima devo dire quanto mi hanno offerto? No, dopo. No, quello è il segreto. Okay. Vediamo quanto avrebbe dovuto essere. Ok, ok. Ah, ok. Guardate, 6.425 possiamo vincere dalla... Che non è andata così, che non era il prezzo giusto quello che le è stato proposto. No, no, io ho contrattato, però tu qua hai contrattato, poi dopo, ok. Poi allora, 6.425 chi offre di meno? Cioè, per alzata di mano, secondo voi quanto l'hanno pagata invece di 6.425 euro? Facciamo delle cifre tonde, sentiamo quanto? 1.500 Massa. Un altro 1.500 Ecco, l'offerta è 1.500 Due vincitori. Ecco, quindi due punti a queste persone che hanno indovinato. Sono riuscita a contrattare. Allora, sono riuscita a contrattare pochissimo. E volevo rifiutare lì per lì, l'ho tenuto perché è un autore a cui tengo e ho raggiunto 2.200 euro. Vabbè, che comunque, beh, insomma, sono quasi no, 1.000 euro in più. Cioè, sì, però, no, certo. Però contrattato, sì, era prima della Red Algoritmo, diciamo che in questo caso proprio era chiaro che non era, però sì, ora questo strumento ci aiuta anche di più. Grazie Elia. Dopo aver rotto il ghiaccio, qualcun altro vuole portare un'altra esperienza? Sì? Di contratti di assunzione, in che ambito? Editoriale, ok, quindi per persone assunte. Beh, c'è un contratto nazionale di riferimento, l'unica cosa a cui ci si può appellare. Un contratto nazionale di riferimento e... Sì. In base ai livelli, sì, ABC, no, ma forse no. Oddio, giù, forse, scusate, passo la parola. Più che altro ho una domanda, nel senso, in teoria, nei contratti collettivi nazionali, oltre al livello c'è proprio la descrizione delle mansioni, che per noi è stato molto utile anche per la definizione dei dignitosi, perché di fatto l'idea è, noi siamo freelance, però facciamo un lavoro che ci sono delle persone che fanno dentro le case editrici. Quindi, per fare il lavoro di ghostwriting, come sarebbe inquadrata una persona regolarmente assunta dentro una casa editrice? A quel punto vedi che sarebbe livello 1 e dovrebbe avere quel determinato stipendio, appunto, mensile, che poi noi abbiamo cercato di tradurre in queste cifre a Cottimo. Quindi so bene, cioè, se la domanda è esiste un modo per capire in che livello dovrei trovarmi, mi viene da dire provare a leggere di fatto le descrizioni dei livelli, che perlomeno per il contratto dell'editoria sono abbastanza dettagliate, quasi tutte queste prestazioni si riescono a trovare e il contratto lo puoi trovare online. Qualcun altro? Anche domande a questo Scusate, punto. Ma qui dentro quanti lavorano come freelance in editoria? E non c'è nessuno che vuole venire a farci un algoritmo? Quindi è un lavoro, sì. L'emozione del redalgoritmo? Il primo redalgoritmo della vostra vita? Vuole venire? No? No. Dica. Io sono freelance ma di un altro settore, ma per curiosità vorrei sapere così la vostra collega che diceva del lavoro di un mese e mezzo sotto mandato, ma in quel periodo di un mese e mezzo quante ore indicativamente ci ha dedicato questo lavoro? Tanto per capire. Ma in realtà poche. Dico la verità, in realtà proprio perché ero così mal pagata, poche. Altro che vabbè, totalmente. Ma meno male, perché un mese e mezzo, 1.200 Così mal pagata, non ho fatto molti altri lavori, però Diciamo, no, però dico, diciamo, no, dico che al di là del tempo che uno ci impiega, comunque tre ore al giorno, che comunque per un mese e mezzo sono tante ore. Tre ore, sto facendo una quantificazione del tutto che è difficile. Beh, ma secondo me il punto non è quanto tempo ci impiego, il punto è cosa ho fatto per arrivare fino a qui, che competenze ho e quanto è giusto che venga pagata. Poi no, a me non interessa quanto tempo ci impiego, perché c'è gente che per un click si prende 10.000 euro al mese. Certo, giustissimo. Infatti, questo è il mio c'è ragionamento. Un discorso di assolutamente. Sì. Cioè? Vabbè, ho risposto, okay. Giusto? Così. Ok. No, no, no, no, no. Vabbè, io... Se volete sapere, quella cifra lì è il doppio della pensione che prendo io. Sono cifre lorde, sempre. Però se facciamo la gara a chi prende di meno non andiamo da nessuna parte. Ma lei di che settore è, se posso? Ah, e noi abbiamo anche collaborato con no? Spettacolo audiovisivo. Io pure spettacolo. Se... Anche lei. Quindi non ha letto cosa c'è da entrare da questa città. Dipende dalla... Dipende dal tipo di inquadramento fiscale che uno ha, sì, e quindi... Beh, insomma, comunque diciamo il regime forfettario bisogna immaginare più o meno di togliere un terzo del lordo e quindi si tengono due terzi, se invece fosse un regime ordinario è metà. Quindi adesso cos'è che avevi detto Ele che avevi preso alla fine? 1.600 avevi preso Eleonora alla fine? 2002. Quindi insomma se fosse che all'ordinario metà è il netto, se invece bisogna considerare due terzi più o meno. Grazie a te. Va bene. Vabbè, tanto non ci serve più. Qualcun altro, qualunque, non so, domanda o voglia di condividere? Niente, allora è il momento dei premi. Ok. Allora, conteggio dei punti. Chi ha dei punti in mano, li conti. Facciamo tipo chi ha 3 punti, alza la mano, esatto, fino a 4, esatto. Andiamo in c'è su. Qualcuno che ha più di 4 punti? Attenzione, quanti punti hai? Ah, 2 persone che hanno più di 4 punti. Ah, fantastico. Ok, allora c'è qualcuno che ne ha. Beh, più di 5, no, più di 4 l'avrebbero okay. Detto. Quindi. Benissimo. Allora direi che sono le 2 persone deputate allo spareggio. Deputate allo spareggio. Okay. Lo spareggione. Allora, per lo spareggione. Sì, sul palco, sul palco. Abbiamo preparato 3 domande. No, lo devi fare ormai, non ti puoi tirare indietro. Siamo in famiglia, tra l'altro, quindi puoi venire qua. Vabbè, ma veniamo qui davanti, dai, dai. Allora, lo spareggione prevede delle domande molto specifiche. Sì. Allora, potete scegliere... Ah, ok, eccoci qua. Ok, sono 3 domande, quindi 1, 2, 3. Facciamo sorteggiare? Sorteggiamo, sì. Ok, puoi sorteggiare una delle 3 domande. Ok. Perfetto. Puoi leggere e rispondere, poi rispondere anche lei, vediamo chi si avvicina di più. Esatto. Vuoi il microfono? Ok. Qual è il prezzo giusto per il coordinamento con l'illustratrice per un libro complesso, più di 60 illustrazioni? Spara una cifra che secondo te è il prezzo giusto. No, ma non c'è, no, no, è tutto qua, tutto a mano. Quindi abbiamo detto il coordinamento con l'illustratrice per un libro complesso che è uguale a più di 60 illustrazioni. Puoi sparare a caso. Oh, 500. 500. troppo. 500 per il coordinamento. Allora. Ok? Beh, però. No, manca. Ah, tu quanto? No, cioè praticamente tutta la parte in cui parli con l'illustratrice, lei ti manda le bozze, le chine, tu le impagini, le mandi al redattore che le guarda, le controlla, te le rimanda con le correzioni, tu passi le correzioni all'illustratrice che le fa, te le rimanda corrette, tu le aggiorni nell'impaginato, sei una grafica quindi sai esattamente di cosa sto parlando, ok? E poi la stessa cosa col colore, insomma tutti questi milioni di passaggi. 1500. Svegliamo la cifra? Oh, la cifra giusta per la nostra guida ai compensi dignitosi è 600 euro. Sei stata troppo. Il che non significa che 1500 non sia giusto, non è che se uno propone di più si rifiuta. No, perché è esatto. Quindi hai vinto un premio, ci sono un sacco di premi. Allora, poi dopo diamo anche i premi di consolazione a chi ha avuto meno punti, però il primo premio è da consegnare. Allora, scelta, allora secondo me secondo me può scegliere la persona. Allora, i premi adesso li vedete un po' da lontano, però sono dei libri, ovviamente, perché cos'altro potevamo dare? Dei libri. I libri più belli su cui abbiamo mai lavorato nella nostra vita. Quello che ha in mano Giulia in questo momento è sulla cacca. Quello lì è sulla cacca, tieni. Crimini e misteri da risolvere mentre fai la cacca. C'è molta cacca, in realtà. Il diario della cacca, molto più che una fashion victim. Un duca imprevisto. Il sorriso del chiar di luna. Una vita di libidine, di Jerry Calà. Memoria dal bagaglino. I milanesi uccidono a luglio perché in agosto vanno in vacanza. Perugino, Geronimo Stilton, per gli appassionati. Il peggior amico di una ragazza, non so chi sia, la matita, la biro, non lo so di chi sta parlando. E basta, più o meno sono questi. Quindi primo premio e poi a... Penso che andrò con crimini e misteri da risolvere mentre fai la cacca. Grazie. Secondo premio. Isa, altra cacca? Tu sei la vincitrice eletta. E quiz. Poi che abbiamo? Poi vogliamo andare a chi ha fatto, quindi voi avete 5 punti. Qualcun altro che ha fatto 4 punti? Lei? Prego, vai. Poi 3 punti e poi... Questa vasta scelta. Questa è l'anno prossimo. Ottima scelta. Ok, chi ha fatto 3 punti? Nessuno. Nessuno, quindi apposta, abbiamo finito con la premiazione. Vabbè, se qualcuno che ha fatto 2 punti vuole venire a prendere un libro, può venire. Sono soldi, grazie. Sono i 300 euro della, senza allora, gli extra. Allora, vi ricordo soltanto che al banchetto lì in fondo c'è la stampa della guida ai compensi dignitosi e le nostre borsine, è tutto autofinanziamento, quindi se volete anche avvicinarvi a vederle, cioè, ci sono Giulia e Mattia che vi convinceranno del loro assolutamente valore. Grazie. Grazie a tutti. Adesso un momento di assestamento e poi cominciamo col DJ set.